tutto ciò che c'è, c'è già. Tutto ciò che c'è, c'è già. Tutto ciò che c'è, c'è già. Allora nei miei pensi che si fa? Tutto ciò che c'è già. Allora nei miei pensi che si fa? Vorrei che Pitocchi abitassero la testa di Brando Ardi, giocare a Tomb Raider insieme a Finardi, uscire solo con la 5T e tornare tardi. Vorrei sapere la mia lingua meno di Biscardi, criticare sgorbi disegnati da Sgarbi, mettere peli sotto le ascelle di Barbie, sapere che Vilma se la fa con Barney, che di nascosto Red Ronnie sa buffa di carni. Fermi, vorrei accendere la radio, sintonizzarmi su Yanna Chica, mette che ste mio. Vorrei stare al Music Award, vincere un premio. Michael Jackson dice capa sei un genio. Vorrei che il mitico Leonardo DiCaprio facesse film solo quando Vasco è sobrio. Io vorrei che Bastard Boys fossero gay, che le teenager ma se lo casa dei casa dei casa dei casa dei. Tutto ciò che c'è già, c'è già. Allora nei miei pensi che si fa? Si fa rendere possibile l'impossibile fino a rendere possibile la realtà. Tutto ciò che c'è già, c'è già. Allora nei miei pensi che si fa? Si fa rendere possibile l'impossibile fino a rendere possibile la realtà. Vorrei che Naomi Campbell senza bikini facesse il filo a Ceccherini, che invece vuole fuggire con la Nannini nella discoteca dove spingono Massini. Cristina D'Avena faccia 12 bambini che fanno cacca che si attacca ai pannolini. Poi la vede al bar che ci dà col Martini, si ingozza con gli alcolici, duetta con i prodigi. Vorrei alzare calici come un prete perfetto, avere l'immenso e mi farà da chierichetto. Vorrei che la Marini fosse senza culetto, che mi mostrasse il suo do di petto. Aspetto che nasca Caparezza Junior, Martufello il massimo dello humor, Shaquille O'Neal che fa l'amore in mini minor. Casa Day, dove sei? I want your freedom. Freedom. Yo, yo. Liberi, liberi, liberi, liberi, liberi di fare. Liberi, liberi di fare. Tutto ciò che c'è, c'è già. C'è già. Allora nei miei pensi che si fa? Si fa rendere possibile l'impossibile fino a rendere possibile la realtà. Tutto ciò che c'è, c'è già. C'è già. Allora nei miei pensi che si fa? Si fa rendere possibile l'impossibile fino a rendere possibile la realtà. Tutto ciò che c'è, c'è già. C'è già. Allora nei miei pensi che si fa? Si fa rendere possibile l'impossibile fino a rendere possibile la realtà. Tutto ciò che c'è, c'è già. C'è già. Allora nei miei pensi che si fa? Si fa rendere possibile l'impossibile fino a rendere possibile la realtà.